Chiedi a Joe se ci siamo persi. Joe, ci siamo persi? Siamo in primavera? Sì. E dobbiamo seguire la costellazione dei cani da caccia fino alla stella più grande. E quanto dista la costellazione dei cani da caccia dalla stella più grande, Joe? 10, 20. Io odio le stelle, mi mettono confusione. 30, 40. A che serve guardare il cielo con gli occhi di qualcun altro? 45. Io non ho mai visto le stelle. 45 gradi. Ogni grado 1000 passi, 1000 per 45. Quanto fa, Paolo? 45.000. Giusto. A Magondi, presto. Inizio io. A Magondi, presto. C'è aria pulita e fresca. E carne di cavallo. E di donna, whisky e... Cavoli da poker. Splendido su di noi. Verde, bellissima luna della lava. Perché sotto le giacchette abbiamo... bigliettoni. Bei soldoni. Per comprarsi un sorriso dalla tua stupida e grossa bocca. 25.538 passi in Lombardia e ricordo... Ah, Magondi, avanti! Con il forte vento dell'est! E insalata di carne fresca! E niente pezzi grossi! Cani di recchio! Oh. Quanti passi, Eric? 17.912. 13, 14, 15... Paul! Eric! Sì, Paul? Chiedi a Joe se ci siamo persi di nuovo. Joe, ci siamo persi di nuovo. E siamo in estate. E dobbiamo seguire la costellazione dell'Orsa Maggiore fino alla stella più grande. E quanto dista la costellazione dell'Orsa Maggiore dalla stella più grande, Joe? 10, 20, 30, 40 e 50. Bisogna scavare una buca di 4 metri oltre il livello del mare. Una buca? Già. E scaviamo questa buca. E scaviamo la buca. Pausa! Anche questo è fatto! A Magondi, coraggio! La nave ha preso il largo! La zizzizzizzazione ce la faranno guarire, passare, splendi su di noi! Verde, bellissima luna dell'Alabama! Perché sotto le giacchette abbiamo... bigliettoni! Bei soldati! Già! Curva! Piano! Dicevi, Iaco? Facciamo la camminata dell'allegria? Sì! Sì, facciamo la camminata dell'allegria! Quando si è allegri bisogna fare la camminata dell'allegria! Certo! Uno! Due! Fondata la città di Magondi. In una località deserta si ferma un grosso camion marconso. Spese straordinarie $300. Ehi, dobbiamo andare avanti! Già, ma il camion è guasto! Già, allora non possiamo andare avanti! Pausa! Quanti passi, Joe? 1250 passi. Ma dobbiamo andare avanti. Già, ma intorno a noi non c'è altro che deserto! Già, allora non possiamo andare avanti! Pausa! Mi è venuto a farne, facciamo una pausa, ma non possiamo fermarci. No. E allora, torniamo indietro. Ma abbiamo i poliziotti alle calcagna e ci riconosceranno a vista. Noi non possiamo tornare indietro. No. Si siedono sul predellino e fumano. Mosè, ma lo sai che là sulla costa c'è l'orro? Ma la costa lo sai quanto è lunga? Già, allora non ce la faremo ad arrivare lassù. Già. Sulla costa c'è l'oro! Là, sulla costa c'è l'oro! Già, ma lo sai quanto è lunga una costa? Già. Willy, che ora è? Le 7:15. Di già! Anche oggi! Già. Come vola il tempo! Già, come vola il vento! Non si va avanti? No! Bene! Oh, Cleo, sei qui! Credevo di averti perduta di là! Oppa! Bene, signori! Cleo! Mi è venuta un'idea! Se non ce la facciamo ad arrivare lassù, rimaniamo qua giù! Qua giù! Ottima idea! Vedete, signori, tutti quelli che sono venuti su di là hanno detto che non è affatto facile togliere l'oro ai fiumi. No, è un lavoraccio che doveva avere! E noi non possiamo lavorare! No! No! Ma io visto quegli uomini e vi dico che ci daranno il loro oro. Oh. È molto più facile togliere l'oro agli uomini che non ai fiumi. Ma quanto antieconomica l'ipotesi di utilizzare la moneta aurea come valuta di circolazione, convertiremo sì. l'oro in dollari con un cambio fisso di 35 dollari l'oncia, per applicare 3 dollari di spesa fissa per la percentuale sull'importo contrattato. Sei figlia di puttana! Capito, Willy? Certo, non ho capito. Perciò, in questo luogo, fondiamo una città e chiamiamola Mahagond! Città rete, come rete si è distesa a catturare uccelli da spolpare. Uccelli grassi, mi devo mettere. Sì, Willy, dunque in questo tratto piantate una canna e dissate il panno affinché le navi provenienti dalla costa dell'oro possano vederci. Spese di avviamento 50 dollari a stata tenda più 20 dollari panno rosso che perdono il loro valore d'uso nella gestione sì. corrente, a cui si aggiungono 300 dollari di spese di manutenzione più la percentuale per le mie prestazioni ordinarie e straordinarie. Ottimo! Il rosso drappello di Magondi sale fin sopra l'estremità di una lunga canna da pesca. Perché questa è la voglia degli uomini, niente soffrire, tutto godere. Questo è il seme dell'oro, gin e whisky. Ragazzi, e una settimana qui equivale a sette giorni d'ozio. Fin qui i grandi uragani non arrivano, ma gli uomini fumando aspettano il sorgere della sera senza limiti. Ogni tre giorni daremo dei mezzi. Urlante e feroce. All'insegnare per play. Sotto quell'albero che piange, montate il bancone del bar. L'albero del caucciù, vuole dire, lo avvenni. Sì, Willy, qui è la città, qui il suo centro. E lo chiameremo Hotel dall'uomo ricco. Ricco, ricco, ricco, ricchissimo. Sì, sì, sì. Ma questa Magondi esiste soltanto perché tutto è cattiveria. Perché non regna pace, non regna armonia, ma soprattutto perché non c'è nulla di solito cui aggrapparsi. Quasi quasi la chiesa. Quadro 2. In poche settimane sorse rapidamente una città e i primi pescicani giunsero a prendervi dimora. Entrano Jenny e quattro ragazze recando valigie. Si siedono sulle valigie e cantano. Quanto costa la luna? 5 centesimi, 7 centesimi, 8 centesimi, comprerò la mia sottomessa di tappetato. Ma io non sono un automa. So che tu rimarrai tanto più giovane quanto meno meccanico sarà il tuo lavoro. Ma che cos'è una puttana se non un essere umano, capi? Un essere umano? Ha un maiale, per carità, non parlare mai di decenni. Se per il signore il lavoro migliore è scadente, tieni chiuso il bello. Il signore ha sempre ragione. Sei più saggia di un prete, capi. Solo più preciso. Master whisky, oh, you know why. Oh, you know why. Oh, io me la compro. La mia sottoveste di tappeta rossa. I cani fossero uomini, chiese la figlia della padrona al signor Coiner, sarebbero più gentili con i pesciolini. Certo, rispose lui, se i pesci cani fossero uomini, costruirebbero giganteschi cassoni per i pesciolini e si preoccuperebbero che ci fosse sempre dell'acqua fresca. Se i pesci cani fossero uomini, penserebbero sicuramente alla sanità. Se un pesciolino si facesse male ad una pinna, gli applicherebbero subito una fasciatura affinché non muoia troppo presto. se i pesci cani fossero uomini. 4-3. La notizia della fondazione di una città paradisiaca raggiunge le grandi metropoli. Una proiezione cinematografica mostra una veduta di un'immensa città e le fotografie di molti uomini. Entrano Will il procuratore, Mosè Trinità, recando cappelli. E le vostre città! Giorno di blu, ci sono le porte! Non c'è nulla! Nulla! E sopra di là! Il fumo! Il fumo! Noi ce ne eravamo dentro e ce le siamo godute! Tutte. Noi passammo in fuente! E lentamente passano anche loro! Anche loro! Lontano dagli ingranaggi del mondo! I treni qui non fermano! Sorge Magonfie, città dell'oro! Si chiedeva di voi giusto ieri! Giusto ieri! Ma Mosè me lo dici, che mi dice ieri, Mosè? Dove sono gli uomini metropolitani? Ma dove sono gli uomini metropolitani? Dove sono? Uomini! Uomini! Magonia esiste solamente perché? Perché? E perché non hai mia pace? Perché? Perché non c'è armonia? Perché? Perché non ci sono più valori umani, poveri uomini metropolitani, metropolitani, metropolitani. Ma Magonia esiste solamente perché? Perché? E perché non hai mia pace? Perché? Perché non c'è armonia? Perché? Perché non ci sono più valori umani, poveri uomini metropolitani, metropolitani, metropolitani. Qui perché vorrei chiamare qui il nostro predicatore Justin? No, eh? Willy, perché lui no? Quanti passi, Joe? 1220 passi! 1220 passi? Già. Siamo quasi arrivati! Dai, a Madonna, presto! 4-4, negli anni seguenti gli scontenti di ogni parte del mondo giunsero a Magonni, città d'oro. Entrano Bob, Eric, Piano e Joe. A Magonni, coraggio! La nave ha preso il largo! La civilizzazione ce la farà un po' a dire! Jacob è rimasto indietro. Sì, eccomi. For if we don't find the next whiskey bar, whiskey bar, I tell you, we must die. Quanti passi, Joe? 370 passi. passi! 70 passi, siamo quasi arrivati! Ai tempi! Quadro 5. Anche Paola Ackerman arrivò allora tra gli altri a Magonni. Ed è la sua storia che vogliamo narrarvi là. A proposito di Magonni, i nostri quattro amici sono fermi davanti a un segnavia per Magonni, sul quale sono appese delle tabelle, comprensi? Quando si sbarca in un nuovo paese si è sempre un po' disorientati. Già, già, non si sa di preciso dove andare. E contro chi urlare? E davanti a chi togliersi il cappello? Questa è la seccatura quando si sbarca in un nuovo paese. Già, già, già. Già, già. Con un'enorme lista di prezzi. Cari signori, benvenuti a casa. Signori. Guardando la lista. Opla, lei è il signor Paul? Paola. Paola Ackerman, famosissimo affilatore di coltelli. Ogni sera prima di andare a dormire si fa portare un gin al bitter. Intenditore. Consumatore dissennato di alcol, di indole irascibile. Piacere, vedova Bagby. Willy, convenevole. Come? Ma come siamo contenti che siete venuti qui a Magonni. Buongiorno, facciamo appena laggiù. Se pagate vi diamo tutto quello che vi fate per la babetta. E questi capelli, un po' di fughe, per il giacchetto, tutti che c'ho dopo. Avete comprato in Alaska, di che sono, di codolo, di lana. Lana di pecora cacciumi, come fai la pecora? Fine convenevoli. E convenevoli. E invece lei, signor Jacob Smith. Sì, sì, sono io. In suo onore abbiamo rastrellato la ghiaia e fatto preparare quattro gustosissimi buoi da spolpare. Mille grazie. E invece per il signor Merck. Presentando. Eric Merck, detto salvadanaio Eric. Eric Merck, scarso gusto per le femmine. Non sarà facile spillargli dei quattrini. E invece per lei, signor Joseph Letto. Presentando. Detto Joe, lupo dell'Alaska. Joe, lupo dell'Alaska, grande camminatore di salute cagionevole. Interessante. Aspetto, signori, per farvi cosa gradita, riabbasseremo un po' le nostre tariffe. Oh, grazie mille. Willy, convenevole. Avete fame? Siete pronti? Qui si beve, si fuma, si va tutto quello che si fa. Fine convenevole. È tutto su fine. Volete, signori, prima di tutto assicurarvi ragazze fresche? Carne fresca, sì. Allora prego, signori, prego, accomodatevi. Vedrete che carne. La scelta, prima qualità. La carne fresca. Mosè porta fotografie di ragazze e le dispone come cappelle da cantastorie. Eccoci pronti a presentare le ragazze di Magonni. Evviva! Già. Coetto. La muta. Ragazza a pelo corto e senza voce. L'ideale per chi ritiene che le donne parlino sempre e troppo. Già. Muta. Piango per me. Piangiamo per lei. Coego Bimbi, la faina, esperta in espressioni volgari. L'effetto viene mitigato dal suo aspetto fanciullesco. Fai un'espressione volgare, Polly? Di più. Oh, sì, già. Coego Cici, la capa è pronta. E come mette lei le mani nella terra per accogliere peperoni, zucchine, melanzane, eccetera, eccetera, eccetera. Così le metterà sul vostro corpo e le fa impazzire, di piacere. Già. Un'interessantissima partita del Michigan. Belle scuro e sorriso bianco. Sono innamoratissimo di lei. Quindi. Fatela ridere, signori. Fatela ire e vedrete come è fatto. Rica. Dai il cielo colpito. Coedo. La talpa. Coscia lunga e seno delicato che, come ben sappiamo, deve traere una coppa di champagne. Anche un bicchierino da gin se si fa. Giusto, giustissimo, sì. Già. Coedo, fu! Jenny Smith dell'Oklahoma, signori! La rossa! Puro osso buco! Guardate che incedere, che eleganza! Attenzione! È una regina! Guardate! Guardate che schiena, signor, fa vedere la schiena, Jenny. Oh, guardate che schiena, questa è una schiena che parla. Sì, parla. E che dice, che dice, dice. E che dice, coprite la voce, signori. Ovviamente è solamente un assaggio, ma... E oggi ci accontentiamo, è vero? Forza, signori, forza! Accusate, mordicchiate, negludite, solo dopo sputate! Carne di qualità! Se si va! Forza, sì. Signori, forza! E dobbiamo portare nel bar dei marinai! Coraggio! Johnny Cash! Che stinchi! Capelli color di tassi! Sì. Quanto spendo per due pezzi? Signori miei, ogni uomo porta nel cuore l'immagine della donna amata! Lo sceriffo disse, è un furfante, la lapaia, cammina tutto schermo, avanti. Io... Su! Ma che male ci trovate? Quella che è troppo piena per una e maturina per l'altra! Orecchio, sì! Io mettevo la trezza, lui il cervello, quindi gli altri mi sbattevano e io lo nutrivo. Signor Joe, già. Credo che per lei vadano bene un paio di fianchi slanciati come questi, sì! Sì, ma una notte mi addormentavo. No, penso che quelli andrebbero bene per me. E una mattina mi sveglia. Io le idee chiare. E invece per il signor Mel. La vai da capo a piedi, mangiare... Non si preoccupi per me, vedo va bene. E dissi tra me, è finito. E invece per il signor Ackerman! Devo toccare! Da allora dalla mia bocca non usci più una parola! E tutti! Ma tutti! Tutti! Toccate tutti quanti! Forza, signori! Siate timidosi! E carne d'esempio! Carne di prima scelta! Prima qualità! Posso? Sì, mi si accontenta dopo! Qui a Madonna mi prendo... Ricordo, solo il cielo! Un mese azzurrino! Tre settimane, giù, paio giù. Sì. Una nuvola bianca, tre saponi alla lavanda, un giovane sudino, un paio di guanti sì, bianchi, sulla costa, su, un cappellino con la piuma, forse anche quattro paio di scarpe, non un paio rosse per le occasioni speciali, pallido e quieto tra le mie braccia, e poi l'ho baciato, le ali. Il resto, un paio di anni nella mia casa, dimenticati. Coraggio! Non si rompono mica, signori, è carne di esportazione, prima qualità. Forza chi? Mica che dittatura, è vero, signori. Allora, che dice? La pesi, la pesi. Così. Signor Jacob Smith, se non hai fianchi slanciati questa, i suoi... $50 sono carne da cesto. Carne da cesto, carne da cesto, sì, sì. $30. $30. Sì, sì, sì, $30. Jenny ha detto $30. Ci pensi un po', signor Smith. Ci pensi un po', signor Jacob Smith, ci pensi bene. Non ci pensi. Con $30 che ci si piglia 10 paia di calze tutto lì. No, di più, signor Smith. Già. Io sono della Valle. Grosso buco! E mia madre mi diceva sempre, figlia mia, non buttarti via per $4 come ho fatto Trita io. Guarda a me! E guardi, guardi, guardi! Ci pensi un po', signor Jacob Smith, ci pensi? Basta, ci tempo, ci pensi bene! Basta. Signor Smith, su! $20 allora! Eh no, signor Smith, lei ha detto $30. No, no, no, no, ho detto 20. Io ho sentito bene, lei ha detto $30, vero Willy? Io ho detto 30. Forse la prendo io. Ah. Ottimo. Ti avrei scommesso. Come ti chiami? Jenny Smith dell'Oklahoma. Jenny Smith dell'Oklahoma. E che sai fare? Tutto quello che vuoi tu, Paul. Paul. Paul. Io sono qui da 9 settimane. Ero laggiù, nelle grandi città. Tutto quel che mi si chiede, lo faccio. Conosco bene i Paul, Paul, Paul dell'Alaska. Piano. Là diventano brutti come morti. E diventano ricchi. Ricchi. Ricchi, sempre più ricchi. Sempre più ricchi. E con le loro giacchette piene di banconote salgono sui loro espressi di lusso. Ed ecco Madoni. Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, mio caro Paul, m'hai guardata bene? Alle mie gambe non c'è chi resista. Un paio di gambe è tutto per te. Su, Paul, siedi in braccio a me. Che sia l'amore, fammi sapere. Thank you. Va bene, ti prendo, ti prendo. Ottimo! Più tre cartoni. Assegnate il governo fuori. Ottima scelta, Paolo. Ackerman. Tutti fanno per dirigersi verso Magonni quando in senso contrario sopraggiungono degli uomini con valigia. Questa Madonna tanto rinnovata mi sembra che non valga nulla. Non mi piace. Già, già, già, io trovo tutto carissimo. Ma voi, signori miei, venite con noi a Mahagondi. E poco importa se dovrò riabbassare ancora il whisky. Ma quante le tabelle le rispuole delle altre con dei prezzi ancora più bassi. Tu che dici, Paul? Ci staremo bene qui. Dove siamo noi si sta bene. Su, Paul, siedi in braccio a me. Su, Paul, siedi in braccio a me. Sono questi, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul, Paul della vasca. Tutti vanno verso Magonni. Là diventano brutti come i morti. Brutti diventano ricchi. Sempre più ricchi. Ho imparato che quando si fa conoscenza con un uomo bisogna chiedergli subito com'è abituato. Mi dica perciò come mi preferisce, Paul. E che sai fare? Tutto quello che vuoi tu, Paul. Paul. Paul. Mi piace così com'è. E se volesse darmi del tu, potrei pensare che anch'io le piaccio. Di, Paul, come li vuoi i capelli? Sulla fronte o all'indietro? Canta. Fu mia madre a fare il menagramo un giorno su di me. Basta. Un altro. That was the time, now very far away. You were so sweet. Basta, basta. Non posso dirlo adesso. Dipende dall'occasione. Non è sempre lo stesso, Paolo. Non è sempre lo stesso. Non è sempre lo stesso. Canta. Maria Sanders lascia perdere quell'uomo. Ha i capelli troppo neri ed un naso che non va. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso che verranno qua. Basta, basta. E per la biancheria? Di, Paolo, vuoi che porti la biancheria sotto il vestito o che vada senza? Senza? Senza. Come preferisce, Paolo? E i suoi desideri? Un po' troppo presto per parlarne, no? Thank you. ne stanno partendo degli altri. Sono già al porto. Li ho visti io. Quadro 7. Ogni grande impresa attraversa una crisi. Diagrammi statistici sulla criminalità e la circolazione monetaria a Magonni. 7 diverse tabelle di prezzi. Interno dell'hotel da Luogo Ricco. Will, il procuratore e Mosè Trinità siedono al banco del bar. Entra di corsa la vedova Beshbeck, tutta truccata di bianco. Sono povero povera, non voglio. Che cosa dovrebbe da tenerli, vedo a Beckwith? Qualche bentola e una buona dose di silenzio. Uomini! Uomini, poi! Mi basta pescare un pesciolino per essere contenti. Siedono sulla soglia, fumano e sono contenti. Siedono sulla soglia e fumano per pesciolino, eccetera. Ah, questa Magonni non è stato un buon affare. Oggi il whisky è a $12. Umanizzavo, dovevo e non risalirà mai più. Questa Magonni non è stata un buon affare. Io non so più come cavarmela, Willy. Tutti continuano a chiedermi qualcosa, ma io non ho più nulla. Ma che cosa devo fare perché restino e mi facciano campare? Cosa, Willy? Oggi si fa chiamare Leocadia Cleo Ada Jen. Ha vissuto 7 anni in un posto, aveva un tetto sul capo e un uomo che la manteneva. Ma un bel giorno quell'uomo si ritrovò sotto nel suono dei morti. Però un po' da non ricordare. Bruttissimo. E non si perse d'animo. Decise di mantenersi con l'affitto della loro stanza. E anche quando questo venne a mancare, seppe come mantenersi a galla. Ci sa fare la merda. Ci so fare. Chiunque la sentiva nominare diceva... Un buon nome questo. Ma durante una notte bastarda... Quattro bicchieri di grappa. Perché potesse dire addio. Addio. Alla sua reputazione. La mia reputazione. Da quella notte il suo nome era finito. Finito. 19 anni fa, principio alla miseria, e la lotta per l'esistenza mi ha ridotto in rovina. Questa, Willy, questa era la mia ultima grande impresa. Aveva nome Magonni. Città rete! Ma nella rete non è rimasto nulla. Fini del lamentevoli, Leocadia. Hai studiato i diagrammi statistici che ti ho fornito? Quali? Quelli sulla circolazione monetaria. No. La velocità di circolazione monetaria risulta nettamente diminuita e si può intervenire solamente aumentando la massa di moneta in circolazione. Ma a Magonni non si lavora. No. E se non si lavora non si suda. E se non si suda non si guadagna. E se non si guadagna si cigola poco. Si cigola poco. Proporrei dunque di dare via alla danza delle scommesse. Signori, mi è venuta un'idea. Ma perché non diamo il via alla danza delle scommesse? Forse con quest'idea, Willy, ce la potremmo fare. Che figlia di puttana. Io amo questa donna. Ma invece no, signori, ma non ce la faremo. Ma torniamo indietro. Facciamo i bagagli. Potremmo anche lucrare sulle scorte alimentari avariate che per noi povere rappresentano solo dei costi, ma la fame cresce nella lastra e dalla legna stallata. Signori, mi è venuta un'altra grande idea. Ma perché non puntiamo sulla lucrazione delle scorte alimentari avariate? Forse con questa idea, Willy, potremmo farci. Che figlia di puttana! Io amo questa donna. Forse con questa idea dobbiamo farcela, vedova Beckwith. Perché? Perché si segnala da pensacola l'arrivo di poliziotti a cavallo che cercano una certa... Leocadia Beckwith! Hanno perquisito tutte le case e poi si sono rimessi in piazza. Niente più, ci salva ormai. Leocadia, la salvezza è nel crimine. Vista l'impennata della criminalità, Magonni, proporrei di aumentare il numero di divieti a cui associare pesanti condanne riscattabili ovviamente in sanzioni pecuniarie. Ah, signori, mi è venuta una splendida idea. Sì. Aumentiamo i divieti. No, sì. No, io sono sicura che con questa razza la faremo a continuare a fare bei soldoni. No, i divieti no, vedo, va bene. Magonni! Non c'erano dei nuovi arrivati? E aveva l'aria di essere ben forniti, magari ci daranno il loro oro. Magari. Oh, Cleo, ma sei qui? Mi è venuta un'altra meravigliosa idea. Torna a cigolare con le altre, cara, su. Oh, oh, oppla. Che figlia di puttana. Che genio, che testa, che idea. Quadro 8. Ogni ricerca sincera va incontro a delusioni. Dalla città giunge Paolo nello stesso atteggiamento degli uomini con valigia del quadro 5. I suoi compagni cercano di trattenerlo. Ah, Si sta proprio bene qui. A Magonni. Già, qui i treni non fermano. Non fermano. È stato proprio un buon investimento. Già. Facciamo la camminata dell'allegria. Sì, facciamo la camminata dell'allegria. Bene. E quando si è allegri bisogna fare la camminata dell'allegria. Su, Iago. E uno, due, tre. Sta sempre meglio. Di nuovo. Ottime idee. E uno, due, tre. Sì. Non credo che sia stata una grande idea mettere tutti quei divieti. Sì, Willy, come dici tu. Sì. Perché scappi? E che cosa dovrebbe trattenermi? E perché fai quella faccia? Perché ho visto un cartello con su scritto è proibito! Non hai gin? Non paghi poco il whisky? Troppo poco! E quiete? E armonia? Troppa quiete! Se vuoi mangiare un pesce non è che da pescare! Ma non basta a farmi felice! E si fuma! Si fuma, si fuma! Si dorme un po'! Fatto! Si muove! Ci si prende una banana! E dove va qui? Sì, Willy! Credo che stia succedendo qualcosa di strano laggiù! Si guarda l'acqua! Si dimentica! Qualcosa manca! È incantevole il giungere della sera! Ed è bello udire il parlozzio degli uomini tra di loro! Ma qualcosa manca! Bella la calma e la pace, serena l'armonia! Manca! Una nave! Sia tornato il sereno. Ottimo, Willy. Tornente, Paolo. Tornente. Ecco, adesso ti sei calmato. E adesso da bravo te ne torni con noi a Mago. È tornata la normalità. La normalità. Normalità, Willy, normalità. Ma che bella parola, la normalità. Lo riportano in città. Quadro, nome. Davanti all'hotel dall'uomo ricco, sotto un immenso cielo, siedono gli uomini di Magonni, bevendo, fumando e dondolandosi sulle sedie. I nostri quattro amici sono tra loro, ascoltano una musichetta e osservano trasognati il passaggio di una nuvola bianca che attraversa il cielo da sinistra a destra. Pista! Da destra a sinistra e così di seguito. Tutti intorno sono piantati cartelli con su scritto: non sciupare le mie sedie. Sì. Evitare di fare il rumore. Giusto. Non correre, sì, evitare camminate pericolose. Ottimo! Ah. Ma si sta proprio bene qui a Mago. Già. A Madonna si è allegri. Io adoro questa città. Io adoro questa città. Anch'io. Salve, vedova Beckwick. Oh, salve, Paul. Paul. Paul Ackerman. Il taglialegna della NASA. Un'offerta per Paul Ackerman? 7 anni. Ho lavorato 7 anni in Alaska. Ho aspettato 7 anni per venire qui. Oggi Paul Ackerman è euforico. Quando Paul Ackerman è euforico fa la camminata dell'euforia. Sette anni nei boschi dell'Alaska, bianchi di neve, faceva freddo là, vedova Beckwick. Ho sopportato tutto, proprio tutto, per venire qui. Proprio tutto. Bestemmie incise col coltello, vedova Beckwick. 7 anni senza mai fermarci per la via più breve. Quanti passi, Joe? 17.000. Ah, non sento, Joe, non sento. Quanti passi, quanti, Joe? Tanti, troppi passi, vedova Beckwick. Troppi passi, e no. No. Ma che cosa vi credete? Che con me si tratta questo modo? Avete sbagliato. Avete sbagliato tutto. Proprio tutto. Venga fuori, vedova Beckwick. Beckwick. Oh, mi scusi. Qui c'è un tale Paul? Paolo? Ackerman, come diavolo lo chiamate, che non è soddisfatto del trattamento. Ah, e di che cosa non sei soddisfatto, eh? Della sua merdosa baracca. Merdosa? Mi pare di aver sentito merdosa, non l'ha detto forse? Sì, signora, l'ho detto io, Paul Ackerman, il taglialegna, quello dell'Alaska. Tenetemi! Ma tu si scuote tutta e si ritira in fretta. Io sono perfettamente d'accordo, Paul Ackerman, ma dico che ti ami, addirittura ma è merdosa questa città. Un po' di rispetto per i sacrifici. L'eroismo non porta lontano. 7 lunghi anni. A tagliare legna per trovare che cosa? Ci sono ragazze fresche qui, qui puoi bere, puoi fumare. Io ho sopportato tutto. Vedo a Beck Beck tutto va bene qui, amato. Qui non mi piace perché qui non accade niente. Vedo a Beck Beck qui non succede niente. Qui ordine che è sempre non accade niente. Vedo a Beck Beck. Vuoi bene, Paul? Puoi fumare? Niente. Da bravo, Paul. Sorridi, Paul. Fai il gentiluomo, Paul. Calma, Paul. Ecco. Così? Sì. Che male. Un po' di sconcio. E bravo, bravo, bravo, Paul. Così. Bravo. Ascolta gli amici, Paul. Io vi ammazzo. Io vi ammazzo. Lo faccio? Non lo faccio? Lo faccio! Anche a me un po' di secco. Ascolta gli amici. Anche a me. Non sciupare le mie secche. Scricchiola, non faccia nero. Io vi ammazzo. Ma che diavolo ti prende, Paolo? Ackerman. Paul, non fare rumore! Oh, good old mama, and must have whiskey, oh, you know why. Oh, moon of Alabama. Tedeschi l'ha scritta un ciclone. Qui ne fa seguito una seconda, un uragano sta dirigendosi sul Magone. Un uragano? Che succede? È un treno, qui faccio è un uragano. Un ciclone. C'è qualcuno qui? Di che colore è un uragano, Willy? Io non vedo niente, c'è qualcuno? No, dalla di qua, io non sono pronto. Io non vedo niente. Cioè, vento fatale. Un muro che mi seguite. La città della rovina è minacciata di gioia. Oh, sorte atroce! Io non credo. Vieni, vieni! Io ti aspetto, sono qui! Che va? Vieni, vieni! Io non mi muovo, nessun treno. Non dovremo prendere nessun treno. Nessun ombrello se piove. No. E coglieremo il fiore dell'ibisco. Dell'ibisco il fiore. E il mattino, il meriggio, la sera, la notte. Diminuendo. Mattino, meriggio, sera, notte. Diminuendo. E dai, su. Sei lento. Lamentar che vale. E che vale? E che vale? Porti, porti. C'era la notte, diminuendo. È stato esame. Porti, in una notte d'orrore, un semplice tagliarella di nome Fa Ackerman scoprirà l'esito della felicità. E vieni su. La notte del ragazzo. Mattino, grigio, c'è. Al riparo del mondo si trova per terra la notte. Che aspetti? Perché è stata salva? Perché? Guarda! Così va il mondo. Non c'è calma, non c'è armonia, ma ci sono gli uragani. Vieni, vieni. E se non bastano i cicloni? Che bisogno c'è dell'uragano quando c'è l'uomo che cerca di godere? In lontananza riprende il tono animo, fratelli, eccetera. E quello che è piano deve curvarsi. Quello che è eccelso crolla nella cenere. E non ci serve un uragano, non ci serve un ciclone, perché i disastri che provoca noi stessi li sappiamo fare. Li sappiamo fare. Ma cosa diavolo vuoi ancora da me, Ackerman? Guarda! Hai piantato cartelli sopra e sopra c'è scritto... Evitare camminate per i soldi. Ah, sì, sì. Non correre. Per favore! Evitare di fare... E questo? Stanotte è vietato cantare canzoni allegre, giusto? Giusto? Sì. Ma prima che suonino le due, io, Paolo Ackerman, canterò canzoni allegre. No, Ackerman, non faccia le ore. Per dimostrarvi che nulla è proibito. Nulla. Nulla. Non ci serve l'uragano. No. No, non ci serve il ciclone. Ma che diavolo dici, Paolo? Esci con me e facciamo l'amore. Sì. Ascolta, Rachel. No. Adesso parlo. Adesso parlo. Non vi fate sedurre. Non vi fate sedurre. Non esiste ritorno. Non vi lasciate ingannare che sia poco la vita. Bevete la gran sorsi. Non vi sarà bastata quando dovrete andarvene. Non vi fate sedurre. Non vi fate sedurre da schiavitù e da piaghe. La paura. Ma la paura come vi può ancora toccare? Dovete morire come tutte le bestie. E dopo? Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Se c'è qualcosa che puoi fare col denaro, piglia il denaro. Staremo. Faremo. Nessuno. Uno che passa al denaro. Picchialo sulla testa e pigliagli il denaro. Puoi farlo. Sperra. E se uno... Vuoi abitare in una casa? Sono io. Entra in quella casa, infilati nel letto. E se uno... Li piglia, sarai tu. Sarai tu. Se poi entra una donna, dall'ospitalità. Prego. Ma se il letto si rompe, c'è via, vattene, puoi farlo. Prendi. Saremo. Nessuno. E se esiste un pensiero? Esiste un pensiero che non conosci? Sono io. E se uno li piglia, sarai tu. Tu. Siamo. Pensalo. Nessuno. Ti costi il denaro, ti costi la casa. Pensalo, puoi farlo. Tancanci, sonigonzi. Nell'interesse dell'ordine pubblico. Per il bene dello Stato. Per l'avvenire del genere umano. Per il tuo. Per il tuo sì, personale benessere. Che se gli uomini si tolgono il cappello, vanno verso Paolo e si congratulano. Sarai nel letto, siamo stati. Mia madre a fare il benagramo. Buongiorno, su di me. La vedova Beppe in faccenno a Paolo e si apparta con lui in un attimo. Sono io! Sarei finita l'ovidorio. Sarei un posto anche peggio se ce n'è. L'ovidorio si fa presto a dirlo. Ma io vi dico che non andrà. Avranno da farla con me. Anch'io sono d'accordo con Paola. Paola. Ma oggi. Ragazzi, sono io. Adoro. Sarai tu. Siamo nessuno a coprirci verrà. E se uno da calci sono io. E se uno di te sarai tu. Tu. Siamo staremo. Nessuno a coprirci verrà. Uno a coprirci verrà. E se uno da calci sono io. Siamo qui, Periscono tutti! Sui tabelloni dello sfondo non si vede più che l'ordimentale carta geografica con sopra una freccia che lentamente si dirige verso Magoni segnando il percorso del ciclone. Quattro dolci! In una luce linda, ragazze e uomini sono fermi in attesa sulla strada che porta a Magoni. Sui tabelloni dello sfondo riappare la freccia della fine del primo atto che lentamente si dirige verso Magoni. Un altoparlante trasmette a intervalli degli annunci. Il ciclone avanza su Azzera alla velocità di 120 miglia orarie. Ecco! Secondo annuncio! Azzera rasa al suolo! Mancano notizie da Azzera per l'impossibilità di raggiungere contatti! Eccolo che terzo annuncio! La velocità oraria del ciclone è ancora aumentata e prosegue in linea retta su Mahagani! Oh, eccolo! I collegamenti con Mahagani sono già interrotti! Un minuto prima di raggiungere la città di Magoni la freccia si ferma. Silenzio mortale. Poi la freccia disegna un rapido semicerchio intorno a Magoni e prosegue. Voce dell'altoparlante. Il ciclone ha girato la città di Magoni e prosegue la sua corsa. porta. Amalia, prenditi gli occhi. Puoi farlo. Prenditi anche le ali. Non importa. Un giorno. Forse farlo. Quando il pensatore capitò nella grande tempesta, egli era seduto su una grande carrozza e occupava molto spazio. La prima cosa che fece fu scendere dalla carrozza. La seconda fu di togliersi le vesti e la terza sdraiarsi sul suolo. Così egli superò la tempesta, nella sua grandezza minima. Leggendo questo, il signor Koiner disse: così vanno vissute le tempeste, altrimenti non si conoscono. Non ho sbagliato strada. Puoi farlo, perché se c'è qualcosa che puoi comprare con il denaro, pigliati. Puoi farlo. Se pensi un pensiero, pensalo quel pensiero. Ti costi la casa, ti costi la vita, ti costi tutto, perché sì. Puoi farlo. Se incontri un uomo per strada che il denaro picchialo in testa e pigliati il denaro. Quadro 13. Un anno dopo l'uragano, la vita a Magoni è molto intensa. Gli uomini vengono alla ribalta e cantano. Prima di tutto c'è il mangiare, poi l'amore ci vorrà. Terzo la posta non ti scordare, quarto bere finché ti va. Ma soprattutto attenti qua, nessun divieto più varrà. Ma soprattutto attenti qua, nessun divieto più varrà. I uomini tornano sul palcoscenico e prendono parte all'azione. Sui tabelloni dello sfondo appare a caratteri cubitali la parola mangiare. Gli uomini si siedono, ciascuno con un grosso piatto di carne. Tra loro è Paul. Al centro della scena, Jacob, ormai soprannominato lo Strippa, siede e mangia senza posa. A destra e a sinistra i due musici. È morto signor Smith. Che tragedia. Povero Jacob Smith. finito il tabacco. Il signor Smith è morto. Guardagli la faccia, Amalia. Guardate che sorriso pomelico. Ha riempito la pancia, ha seguito la legge del valorone. La crudeltà della fame, più si sazia e più cresce. Facciamo la camminata dell'allegria. Paolo. Jacopo è rimasto indietro. E vabbè. Numero 2, d'amor l'incanto. 4-14, i uomini tornano sul palcoscenico. Sui tabelloni dello sfondo appare a carattere capitale la parola. Sopra una piccola tribuna è esita una semplice stanza. Al suo centro siede la pecquica, alla sua sinistra una ragazza, alla sua destra un uomo. Sotto la tribuna gli uomini fanno la fila. Musica in fondo alla scena. Sputa la cicca! Prima lavati le mani dalle tempi. Lavati le mani dalle tempi. Scambia con lei quattro chiacchiere, sì. Ma prima sputa la sua cicca. Il viso, ti sei lavata il viso con acqua ghiacciata. Ghiacciati! La capa di sputa la cicca, sì. Lavati le mani. Non indossare biancheria di seta, sembrerai malata. La menta! La cicca! Lavati le mani dalle tempi. E indossa sempre scarpe cocco. Amalia Balli, che... Ma sputa la cicca! Lavati le mani, sì, dalle tempi. E asciugati con panno ruvido. Ruvidissimo, ma ricorda, sputa la cicca, lavati le mani. La faina! Dalle tempi, poi ricorda sempre. Il grand'arco delle gru. Le nuvole che navigano erano già insieme a loro. Quando via volarono. Da una vita verso un'altra. Verso un'altra vita. A uguale altezza. E con uguale moto. Vagliano queste a quelle. Appena la prossima. Sicché la gru e la nuve condividono quel che in brevura bel cielo trasvolano. Sicché alcun dei due più non si indugia dell'altro. Se non l'ondulazione dell'altro. Vedi. Dentro il vento. Cui sconsentono essi. Fiora nel volo. Uniti. Uniti. Cosa? Potrebbe il vento portarli nel niente. Purché esistano. E restino accanto. Tutto per loro sarà indifferente. Indifferente. Nulla. Nulla. Nulla li può turbare sino ad allora. E sino ad allora volano via. Da dove? Da dove? Piogge, minacino o schianti di spada. E così. Così. Per l'uno e solo. Dischi di poco incanto. Poco di sinistra. Volano via. Volano via. L'uno accanto all'altra. Devoti. E dove? In nessun luogo. E via da chi? Da tutti. Da quanto tempo sono insieme? Da poco. E si separeranno? Tutto attenti in cuore. Presto. Nessun dietro più, ma soprattutto attenti qua, che sembra amore dietro più. 4-15, gli uomini tornano sul palcoscenico sul quale si sta allestendo un ring da box davanti allo sfondo su cui campeggia la parola lotta. Una banda suona su una tribuna laterale. Punta tranquillo su Joe Lupo dell'Alaska. Signore e signori, grande incontro di box, scoppiare KO. Joe Lupo dell'Alaska sfiderà Los El Trinità. Adoro questa città. Cos'è Trinità? Questo qua non è un incontro, è un suicidio per il buono. Per il momento non sono ancora morto. Ah, beh. Vuole puntare su di me? Che lo faccia? Il passo più lungo della gamba, l'avevo detto io. Puntate, signori! Prendi a donna il servo segreto! Forza, signori, forza, chi può vincere sei! Chiunque ha fama di persona seria e crede più al cervello che alla materia. Fino all'ultimo soldo che hai in tasca, lo punti su Joe Lupo della Lasca! Pao, conto soprattutto su di te! 50 dollari! 60 dollari! Joe, vecchio mio, conto tutto su di te! Bravo, Pao! Joe, lupo della vasca, sguardo spento, piede veloce! Sull'altro! 75! Dai, passi giù con te! Curva, spazio! Tanto detto cosa! 50 dollari! Sì, tutto anch'io! I due contendenti, Joe Lupo della Lasca, peso 85 kg, Los El Trinità, fino a questa sera, ciò lupo della lasca lo sacrificò. Laggiù, fallo per lui. Laggiù, laggiù. Nostro Dio è sfrenato, violento. La lotta diventa danzeriggia. No, José, colpisci lo soldato, José. Sbagliato strada. È morto. Che tragedia. Povero Joseph Letner. Il signor Joe è morto. Niente da dire. Incassava malissimo. Vincitore. E vincitore Mosè Trinità. Dolentissimo. Un timbi show-up e Mosè Trinità. Urrà! Urrà! Urrà! Urrà! Ci voleva proprio. Sai, chiedi a Joe se ci siamo persi. Va. Prima di tutto c'è mangiare, poi l'amore ci vorrà. Terzo la box non ti scordare, quarto bevi che ti va, ma soprattutto attenti qua, nessun divieto più varrà, ma soprattutto attenti qua, nessun divieto più varrà. 4:16, gli uomini parlano sul palcoscenico, sui tabelloni dello sfondo appare a caratteri cubitali la parola sbornia. I uomini si siedono, appoggiano i piedi sul tavolo e bevono. Il primo piano, Paul, Jenny e Irene giocano al biliardo. Si beve! Ottimo! Tiro incrociato! Oh oh! Il tiro incrociato è quello che ci vuole quando... Quando? Quando ci vuole! Giusto. Hai perso tutto, Paul! Non hai più un soldo! Ginna, 8 dollari! Mosè! La 8 in buca d'angolo! A chi gioca si secca la lingua! Ottimo! Bel colpo, Paul! Tocca a te, Irene! La 12 nella buca in fondo! Tocca a me. Bravo Paolo. Ginda, 10 dollari. Ottimo, Mosè. C'è una volta un tizio. Io scommetterei un po' di soldi su te. Che a 18 anni prese il vizio di bere. Vuoi dire alla 12 in buca centrale. E per questa senza china, soldi. Per questa china lui andò in rovina. Morì a 80 anni. E il perché lo sappiamo io e te. La 4, sempre lì fuori. C'era una volta un bambino. Morì in modo rapido a un anno. E per questa china lui andò in rovina, senza bere. Alla 9 in buca d'angolo. Senza bere, è chiaro. Eppure morì a un anno. Sì. Da qui potete vedere... Tocca a me. Come sia innocuo il bene. Innocuo il bene. È difficile. Rilancia, Paolo, rilancia. Colpo basso. Ginna, 12 dollari. Il colpo basso è quello che ci vuole quando... Quando ci vuole. Giusto. E quando ci vuole, ci vuole. Signori, offro a tutti un bel bicchiere di whisky. Oh, questo sì che parlare anche il McWilly, Mosè. Su. Ogni giorno a Magonni 5 dollari era il minimo. E magari non bastavano per chi aveva più pretese. Nel poker dream saloon di Magonni tutti chiusi se ne stavano. Che perdessero era giusto. Ma vuoi vedere gusto? Che gusto, sì. Doppio tiro! Tiro doppio, vedo la pezzi? Sì? A tutti un altro bel bicchiere di whisky. Ma quindi, Mosè! Su! Paola Ackerman, forza! La pelle costa poco, mentre il whisky costa caro. Il whisky costa caro, già. Il whisky costa caro, già. Bene, signori, adesso si paga. Di già! Sì. Arriva sempre. Paolo, già si paga. Si paga. Paolo, devi pagare. Paga? Non ho più un soldo, Jenny. Sarà meglio che ce ne andiamo. Ah, non importa dove, ma... ma in fretta. E tu stammi vicino, che il pavimento ondeggia. Ondeggia che pare un terremoto. Sì, sì, pare... pare un terremoto. Via. Signori, facciamo tutti un bel viaggio in mare. Un viaggio in mare? Come un viaggio in mare? Sì, un viaggio in mare. Willy, mo sai fatto qualcosa? Una. Su questa barchetta. Una barca. Mi sembra solita. Willy, hai sentito? Trasformando in una nave, servendosi di massa, la testa e il fianco. Allora bisogna organizzarsi. Che cosa sta succedendo? Willy, bisogna organizzarsi. Willy. Accidenti. Che cosa fate? Non toccate. Fermatevi tutti. Cos'è? Ho detto fermi tutti. Cos'è? Ma funziona. Che cosa? È libero che si possa. Che cosa? Allora, beh, a me sembra solo. Io mi siedo qua. Splendida notte. È una splendida notte per partire. Volete affitto? Tu. Freddo. Il mare ci culla. Ci porta via. Via. Un gabbiano. Dove? Guarda le stelle, Paolo. Io non ho mai visto le stelle. Guarda, il cielo, Amalia. Zitto. Io odio le stelle, mi mettono confusione. Ma dove andiamo, Paolo? Già, dove andiamo? Dove? Andiamo in Alaska. In Alaska? Ma dove andiamo? Sì, in Alaska. Ci voglio andare in Alaska. E quanto costa la luna in Alaska, Paolo? E le ali le regali, te la regala. Paolo, pensi che staremo bene? E dove siamo noi si sta bene. Siamo un povero illuso, anche ma un sognatore questo. Guarda, guarda quella vicina mordita. Senti che vento forte. Guarda Paolo, nel cielo si è aperta la strada. E seguiamola. Adesso paga, però. Fuori i soldi per il whisky. Siamo a Magon. Già. Vedova Begbie? Sì. Non posso pagare. Cosa? Come? Non vuoi pagare? Il signore non vuole pagare? Sa cosa l'aspetta allora? È arrivata la tua ora. E voi due, non vi sentite di dargli una mano? Neanche tu, Jenny. Un amico allora che mi disse, un giorno, a tu per tu. Dunque, non se ne parla, Ackerman. Non pensare mai. Dunque, l'amore. Niente. Sta presto a dirlo. Legatelo! Ma da quando? Ogni niente. Giorno invecchi un po'. Nessuno l'amor ti chiede più. Si sbrighi dunque un uomo, se è un uomo. Se un agnello non è. Nel letto in cui siamo stare. Ci verrà, e se uno da calci sono io, e se uno l'invita a sarei tu, Ackerman. Voi qui vedete un tale che non può saltare il suo ponte. Pazzo, sfacciato, manigoldo e quel che è peggio, senza un soldo. Naturalmente una specie di capricci. Ciao, voi non mi rattristate per questo. E se uno li prima sarei tu. Tu e il tu anche. E se uno da calci sono io. E se uno di più sei tu. L'eroismo a Giulio Cesare a ben poco gli servì. Sembrava un dio sopra l'altare e un bel giorno ucciso fu. Fuoque tu, Brute, eccetera, eccetera, eccetera. E da quel giorno a tutti fu ben chiaro che l'eroismo costa caro anche. Quadro 17. Paolo Ackerman solo e incatenato. È notte. Un'offerta per Paolo Ackerman? Ehi! Paolo Ackerman non è soddisfatto del trattamento. Quando il cielo sarà chiaro comincerà un gran brutto giorno. Ma per adesso è ancora notte. Urla e non s'arresta. Che la notte non finisca. Che quel giorno mai non nasca. Mai non nasca. Ma sì, mi sdraierò sul pavimento quando verranno. Dovranno strapparmi con la forza se vogliono portarmi via. Che la notte non finisca. Che quel giorno mai non nasca. C'è tutto nella pipa, vecchio mio, e fumaci su. Quel che è stato non era poi tanto male, e quel che è da venire, beh, quel che è da venire, cacciamo nella pipa. Ma certo, farà notte ancora a lungo. Spunta il giorno. No! Ehi! Niente luce! Ehi! Ehi! Ehi! È un gran brutto giorno che comincia. Già, già. Già. Norimberga si puniscono le donne che vanno a letto con un uomo che non sia di razza ariana. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso che verranno qua. Maria Sanders lascia perdere quell'uomo, ha i capelli troppo neri ed un naso che non va. La fame cresce, i tamburi rullano più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso che verranno qua. Ma la mia chiave non c'è niente di grave. E la luna splende in cielo come sempre. Come sempre. Come sempre. Come sempre. La fame cresce, più forte che mai. Oh mio Dio, hanno già deciso che verranno qua. Un bel giorno gli ha tagliato i capelli e le ha messo un cartello al collo e una camicia. Prese la gente e lei. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. Niente. La carne rincara nei sobborghi e gli sbianchino sarà Dio del cielo che ha occhi per vedere, ha già capito che cosa accadrà. Quadro 18. I tribunali di Magonni non erano poi peggiori degli altri. $5, signori, solo $5! Padiglione del tribunale! $5. Una tavola e tre sedie dietro un piccolo praticabile di ferro ad emiciclo come nelle sale operatorie delle cliniche chirurgiche. $5, signori, forza! Su di esso il pubblico legge i giornali, plastica gomma, fuma. $5, signori, solo... Sul seggio del giudice la Peppic! Eccomi! Sullo scanno della difesa Willy il procuratore! Sul banco degli imputati un uomo, Toby Hickey. Dal tomo 1 della rivista economica il crimine è salvezza. $5, primo processo Toby Hickey. $5. Toby Hickey. Signori Higgins. Toby Hickey. Signori Higgins si ha propinto. Signori Higgins si ha propinto. Signori Higgins si ha propinto ora. Io, l'uomo seduto sul banco degli accusati, si alza. Siete reo di omicidio premeditato commesso per provare una vecchia pistola. Articolo 2163, uso dissennato di armi, $100 o pena di morte. Ma si vede un reato commesso con tanta ferocia, spudoratamente attentando ad ogni senso d'umanità. Dal cuore della giustizia vilipesa si eleva un grido. Espiazione! Ma valutando le circostanze attenuanti, $90 o pena di morte. Perciò io, pubblico ministero, davanti al cinico contegno di quest'uomo inconcepibilmente perverso, chiedo che la giustizia segua il suo corso. Un'offerta, signori. $30. Dimmi, 35. Guardate la ricca del pubblico ministero, c'è sotto una nota che non è banale. L'ha accusato la pezza. E che? L'ha accusato con tutto il suo piccolo dico, su capire quanto sarà giusto a pagare per corrompere il tribunale. Considerate le circostanze. Lo stesso sistema la Peppic spinge la porta sempre più su. $90. Ottimo. Sì, assolto. Più $90. Le conclusioni del difensore. Chi è la parte lisa? Silenzio. I morti stanno zitti. E se la parte lisa non si presenta, non ci resta che assolvere. Per forza, sì. Secondo processo. Avevo 14 anni quando mi ubriaca per la prima volta. Non ci capì più nulla. Vuoi giocare con me, Anna? Ella mi guardò con i suoi occhi grandi e ingenui. Io la misi a sedere. E le gave alle mie mani. Non potevo sentirla parlare. Le tappai la bocca con il fazzoletto ricamato della mamma. Presi il coltello. Adesso ti strappo quegli occhi. Quei pezzi di cielo che cercano sempre ovunque un paio di ali. Magari, magari li vendiamo. Così ci compriamo un paio di scarpe nuove. Le calze col merletto, sì, e perché no? Anche un sapone profumo. Secondo processo, Paul Ackerman, reo di furto e di millantato credito. Un ottimo uccello nasce, poi va. Cari Paul in catena accompagnato da... Paul Ackerman, famoso affilatore di coltelli. Ogni sera prima di andare a letto si fa portare un cina di tè. Vedo che per il mio arrivo avete fatto rastrellare la ghiaia, vedova vecchia. Sì, per lei Ackerman, per lei. Prima di salire sul banco degli accusati. Su, Rico, dammi $100 così i giudici mostreranno comprensione. No, signor Merrick. Eric Merrick. Detto salvadanaio, Harry. Heidrin si è nati in sedella. Un'offerta. Paul, come amico, mi sei caro, ma quanto hai soldi è un altro affare. Rico, hai dunque dimenticato? No, dimenticato. Hai dato il qualcosa, chiedeva. Sei centesimo magico. I bei tempi della razza. Non c'è via d'uscita. I grandi geni. I sette inverni, quando stavamo nei boschi. E laggiù, e dammi i soldi. E quanta fatica a fare quei soldi. E quindi lui rideva. Questa è la via d'uscita, paga? Per perciò, Paolo, questi soldi non posso darteli. Siete reo di non aver pagato 3 bottiglie di whisky e un'asta da tenda. Mai si vide un reato commesso con tanta ferocia, spudoratamente attentando ad ogni senso d'umanità. Dal cuore della giustizia vilipesa si eleva un grido. Espiazione. Perciò io, pubblico ministero, chiedo che la giustizia segua il suo corso. Un'offerta, Ackerman. Ricorda, Paolo. Ackerman paga la strada più breve. Il passo incrociato per la via più breve. Bene. Vuoi fare l'uccellino che non vuole volare? Le opere. Si continua l'interrogatorio. Imputato Paul Ackerman, appena giunto qui a Mahagoni, è sedotto una fanciulla di nome Jenny Smith e l'hai costretta per danaro alle tue botte. Articolo 4187, seduzione improduttiva di femmina, $85 o 4 anni con la condizionale. L'ho fatto. Chi è la parte lì? Jenny facendosi avanti. Io? Mormorì tra gli astanti. Oh, c'è la parte lesa, Ackerman c'è. Piano. E all'approssimarsi di un ciclone, in un momento di generale sconforto, hai cantato una canzone al comma 2, la retà inopportuna, $35 o 2 anni di interdizione. Sì, l'ho fatto. Ma in quella notte Paul Ackerman si è introdotto in città distruggendo calma e armonia. E per pura avidità di denaro ha condotto il proprio amico a morte certa. Indiretto omicidio indiretto di amico, $30 o 2 giorni d'arresto. E chi, signori, chi è stato a uccidere l'amico? Già! Chi ha ucciso il nominato Giolupo dell'Alaska? Questa corte non ne è a conoscenza. Oh, applausi e fischi degli astanti. Piano. Ed ora il principale capo d'accusa. Hai consumato 3 bottiglie di whisky. $12 per 3, $36. E ti sei divertito con una staratella. $50 valore economico più $20 in valore affettivo. Ma perché Paul Ackerman non hai pagato il conto? $106 o pena di morte. Già, Paul Ackerman, perché non hai pagato? Perché non ho più un soldo. Non ha soldi? Non ha pagato, che sia con sé. Chi è la parte lesa? Già, vedi, quindi procuratore Mosè Trinità si alza. Imputato Paul Ackerman, sei condannato. Per omicidio indiretto di amico. A 2 giorni d'arresto. Fumaci su. Per aver distrutto calma e armonia. A 2 anni di interdizione. Fumaci su. Per aver sedotto una fanciulla di nome Jenny. A 4 anni con la condizionale. Fumaci su. Per aver cantato canzoni allegre. A 10 anni di carcere, ma poiché non hai pagato le mie 3 bottiglie di whisky e la mia asta da tenda, per questo, Paul Ackerman, sei condannato a morte. Per mancanza di denaro, massimo fra tutti i delitti che possano darsi sulla terra. Uragano d'applausi. Piano. Quando eravamo nelle grandi città, mia madre mi raccontava sempre... Mia madre mi diceva sempre, Paul, Paul, Paul, non arrampicarti sugli alberi perché rischi di cadere. Che nelle grandi metropoli ci sono dei palazzi enormi. Enormi. L'uno accanto all'altro. Ogni palazzo, un custode. Un giorno, il custode di uno di questi palazzi salì fino all'ultimo piano e cadde dal terrazzo. Un volo di 30 metri. Un metro al secondo. Ma il problema non è la caduta. È l'atterraggio. È l'atterraggio. Perché i passanti che camminavano sul marciapiede, vedendo il corpo a terra, passarono oltre. Passarono oltre. We now must say goodbye. We've lost. Addio, Paolo. Pensa se questo, un giorno, questo, un bel giorno, questo, pensa, se questo, un giorno, questo, un bel giorno, questo, pensa, se questo, un giorno, questo, un bel giorno. Questo finisse. Pensa. Quadro 19. Esecuzione, punto, capitale, punto, di Paul, di Paolo, di Papo, a Paola. Esecuzione capitale di Paul Ackerman. Tra quelli che tra poco assisteranno all'esecuzione di Paul Ackerman, molti certamente non l'approveranno, ma a nostro avviso neanche costoro sbosserebbero un soldo per lui. Un'offerta per Paul Ackerman? Tale è la reverenza che il denaro suscita nella nostra epoca. Una proiezione cinematografica mostra una veduta generale di mahagonni immersa in una luce di serenità. Tutto intorno gruppi di gente in piedi. Quando Paul Ackerman fa il suo ingresso accompagnato da Heinrich e da Jenny, gli uomini si tolgono il cappello. A destra si sta procedendo al montaggio della sedia elettrica. Quello che è di diverso questa città è che invece d'aria a terra. Addio, Jenny! Le vie sono completamente interrate, le stanze piene d'argilla. Vado via! Fino al soffitto. Ore felici ho passato con te. Se gli abitanti possano attraversare la città allargando i cunicoli dei vermi e le fessure in cui si insinuano le radici, non lo sappiamo. Addio, Paul! L'umidità sfascia i corpi e lascia loro poche forze. Conviene che restino fermi e distesi. Anch'io ho trascorso ore felici con te. Tanto è buio. Da qua sopra non si vede nulla. E c'è chi dice, è là sotto. E non resta che credere. Credimi, come me ce n'è ancora molto. E non è vero, Paul. Di notte, alle porte, accostando l'orecchio al suono, si può sentire una porta che sbatte. Non ti sei messo anche un velo bianco da vedova? Sì, Paul, sono la tua vedova. Baciami, Jenny. Baciami, Paul. Pensa a me. Certamente. Non separarmi ancora. Perché? Baciami, Jenny. Baciami, Paul. E adesso ti affido a Enrico, l'ultimo amico mio. Addio, Paul. Hello, Enrico. Piano. Come ti chiami? Jenny Smith dell'Oklahoma. E se volesse darmi del tu, potrei pensare che anch'io... Le piaccio? Piano. Tocca di qua, nessun divieto più varrà, ma soprattutto attenti qua. Nessun divieto più varrà. Paul, che si è fermato, si volge a guardarli. Dunque, davvero volete mettermi a morte? Sì! Questa è l'usanza. Ma voi lo sapete che c'è un Dio? Che cosa c'è? Un Dio. Vuoi sapere se per noi c'è un Dio? Beh, ecco. ecco come ti risponderemo. Signori, fategli ancora la scena di Dio a Mahagoni. Beh, tu però intanto siediti sulla sedia e leggi. Ora con me, siete pronti a venire? Si guardarono gli uomini di Mahagoni. Sì, dissero gli uomini di Mahagoni. In un'alba limita, piena di whisky, Dio venne a Mahagoni, Dio venne a Mahagoni, piena di whisky, noi di queste cartucce? Il mio buon missionario chi l'ha ucciso? Ed io dovrei sopportare per l'eternità il vostro grugno da beoni in paradiso. Si guardarono gli uomini di Mahagoni, sì, dissero gli uomini di Mahagoni. In un'alba livida, piena di whisky, Dio venne a Mahagoni. Dio venne a Mahagoni, piena di whisky, noi Dio vedemmo a Mahagoni. Presto tutti all'inferno, fate scorta di sigari e mettetevi in fila, canaglie, e in marcia per l'inferno che vi aspetta. Si guardarono gli uomini di Mahagoni. No! Dissero gli uomini di Mahagoni. Ora lo capisco. Lo capisco. Salve, vedova Bagby. Quando sono arrivato in questa città per comprarvi la gioia col denaro, perché sotto le giacchette abbiamo la mia condanna era già segnata. Ed ora eccomi qua, sulla sedia elettrica. Senza aver goduto nulla. Cain direcchiò. Ed ero stato io a dire: ciascuno con un coltello si taglia il proprio pezzo di carne. Carne di cavallo e di donna, whisky, Ma la carne era marcia. La gioia che ho comprato non era gioia. La libertà che ho avuto per denaro non era libertà. Ho mangiato senza... Jacopo è rimasto indietro. Ho bevuto. Bevuto. Bevuto. Tiro incrociato, colpo basso, doppio tiro, vieto va bene, mica tutti un altro bel bicchiere di whisky. Ho bevuto. E mi è venuta sì. Vedo va bene. Qui c'è un tale. Un tale. Un tale. Io non ho mai visto le stelle. Via l'un de Bilbao e l'amore te bo vecchio, vecchio, vecchio andare. Via l'un de Bilbao, fantopsica lao. Vecchio sostare. Piele un da bilabao. Andare, sostare, andare, sostare, andare, sostare, sostare. Sostare. Jamais te frade po. Piele un da bilabao. Tu lasci fare otto. Ora lo capisco. Lo capisco. Senza patron, si già ne trovo, vous avrez plumé. C'est le plus chouette. C'est le plus chouette. C'est le plus... Posso avere un bicchiere d'acqua? Via. Un bicchiere d'acqua. Possiamo esortarlo, possiamo redarguirlo, possiamo portarlo via, possiamo lasciarlo lì. Nessun ordine possiamo dare a un uomo morto. Possiamo dargli del denaro, possiamo scavare la tomba, possiamo seppellirlo. Nessun denaro possiamo dare a un uomo morto. Né a noi, per la lotta di tutti, per l'amore. Perché le nostre città restino per caso. Possiamo distruggere per la libertà di riposo.